Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezzi e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 come sempre è il numero per intervenire in diretta via SMS naturalmente, altrimenti se volete mi potete scrivere su Twitter Simone Spezia. Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, gli argomenti sono tanti. Innanzitutto, più che la legge di stabilità, in questo caso i problemi che a quanto pare sta trovando il governo, a dir la verità ve l'avevamo annunciato o preannunciato, a trovare i soldi per cancellare la seconda rata IMU. Vi ricordo che entro il 15 dicembre, o meglio il 15 dicembre è la scadenza entro la quale andrebbe pagata questa seconda rata IMU, che tecnicamente in realtà è il saldo, e a quanto pare all'appello al momento mancano 900 milioni di euro. Ne parleremo come sempre con Dino Peso, il collega del Sole 24 Ore, che molto capisce i conti pubblici, ci può fare anche capire da dove sono stati cavati, invece da dove è stato cavato l'altro miliardo e mezzo, quello che invece sarebbe stato reperito. Detto ciò, ricordiamoci sempre che a questo punto mancano 25 giorni circa al pagamento della seconda rata dell'IMU e non sappiamo se la dovremo pagare oppure no, salvo fatte salve le rassicurazioni. Questo rientra in parte anche nel tema del quale trattavamo ieri, insomma, sì, le tasse, tax rate elevatissimo in Italia, ossia livello di tasse molto elevato sia per le imprese che per i cittadini, e poi c'è una questione di incertezza fiscale che, permetteteci di dirlo, è veramente mostruosa. Gli altri temi di questa giornata, le imprese turistiche, le imprese del turismo e l'alluvione, come sempre, pur piangendo i morti, pur con un occhio alla tragedia, a quello che è avvenuto in Sardegna. Oggi torneremo ad affrontare il tema dell'alluvione dal nostro specifico punto di vista. Ieri abbiamo ospitato il presidente degli industriali sardi, oggi ospiteremo il presidente di Federturismo per capire qual è la situazione proprio dal punto di vista delle imprese turistiche. Perché la zona colpita è una zona che ha naturalmente una forte vocazione turistica. Parleremo di privatizzazioni a Genova. Come sapete, come sanno i nostri ascoltatori che si trovano a Genova, soprattutto i nostri ascoltatori genovesi, sono due giorni che la città è nel caos perché sono scattati degli scioperi selvaggi del trasporto pubblico locale, perché c'è una delibera con la quale si ipotizza la privatizzazione dell'azienda o almeno una parziale cessione delle quote. Ospiteremo il sindaco di Genova e ci faremo raccontare un po' che cosa intendono fare, soprattutto per sistemare, per rimettere in sesto l'azienda. Fatto sta che probabilmente la vendita ai privati a questo punto appare l'unica soluzione, viste le condizioni finanziarie tanto dell'azienda quanto dei comuni in genere, insomma, a prescindere dal comune. In questo si innesta una discussione più generale, se volete, sul tema appunto delle privatizzazioni, dell'uscita dei comuni dalle aziende, dalle municipalizzate, insomma, ecco. Altra questione importante, interessante, che da una giunta con un sindaco, insomma, di sinistra, abbastanza nitidamente di sinistra, venga un'ipotesi di questo genere. Quindi parleremo anche di questo. Parleremo di un altro settore industriale, quello dei giochi, perché oggi sono arrivate le proposte degli industriali del settore per la riduzione delle slot. Naturalmente un occhio ai mercati, come naturale, oggi giornata non particolarmente brillante, negativa anche se di poco, meno 0,15% sul FTSE All-Share, meno 0,17% sul FTSE MIB, con il resto dell'Europa che viaggia intorno alla parità, più 0,03% Francoforte, meno 0,09% Parigi, Dow Jones in rialzo dello 0,08%, in positivo anche il Nasdaq, più 0,3%, euro che quota 1,3467 contro dollaro. Vi ricordo ancora il numero per gli SMS, 349-238-6666, oppure il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, mi trovate là e mi potete anche scrivere là le notizie in breve di oggi. Innanzitutto le materie prime, l'oro scende a 1256 dollari l'once, in calo dell'1,3%. Per quanto riguarda il petrolio, il WTI con consegna a questo punto a gennaio più 0,17% a 94,05 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, il rialzo di mezzo punto percentuale a 107,5 dollari al barile. A proposito di materie prime, in questo caso parliamo di gas, perché è stato riattivato il flusso dalla Libia, lo ha comunicato il gruppo Snam su Twitter. Per la giornata di oggi erano attesi 3 milioni e mezzo di metri cubi. Eni intanto ha firmato a Mosca l'accordo per la cessione della quota del 60% nella società Arctic Russia a Yamal Development, società paritetica tra Novatek e Gazprom Neft. Arctic Russia detiene il 49% di Sever Energia. Il corrispettivo della cessione è di poco meno di 3 miliardi di dollari. Scadrà a gennaio il mandato di Ben Bernanke dalla guida della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve. Parla Bernanke e dice che c'è ancora bisogno di tempo prima di un ritorno della politica monetaria alla normalità. E la politica resterà accomodante anche dopo la fine del piano di acquisti di asset da 85 miliardi di dollari al mese messo in atto dalla Fed. Molto dipenderà, specifica Bernanke, questa non è una novità, dire il vero, dall'andamento del mercato del lavoro. Questo per quanto riguarda appunto il taglio degli acquisti di asset. Interessante che secondo alcune indiscrezioni di stampa la Banca Centrale Europea starebbe valutando l'opportunità di portare in negativo, a meno 0,1%, il tasso con cui remunera i depositi overnight delle banche, attualmente pari a zero. E sempre in tema di Europa abbiamo dei dati dalla Francia. I fallimenti delle imprese a fine ottobre sfondano quota 9.000. Numero già pari all'intero 2012, un più 24% rispetto all'anno scorso. Abbiamo notizie che arrivano anche dall'Istat. Per il 59% delle famiglie la situazione economica è peggiorata. Attenzione però che i dati riguardano un'indagine svolta nel marzo 2013. Dice l'Istat che il calo è generalizzato sul territorio, ma maggiore al nord. Secondo l'associazione di consumatori, la spesa delle famiglie per i regali di Natale scenderà dell'11,2%. Sono anche i dati di Federcasa, per non farsi mancare niente, per così dire, dal lato dell'allegria. Quasi 2 milioni di persone vivono in condizioni di bisogno economico e precarietà abitativa, con un forte aumento negli ultimi 3 anni. 49.000, quasi 50.000 nuove domande di alloggio, che portano il totale delle liste di attesa dei comuni a 650.000 famiglie. Federcasa è l'ex istituto per le case popolari. Centro Studi di Confindustria conferma la frenata del calo del PIL nel terzo trimestre 2013, meno 0,1%, l'acquisito per il 2013 meno 1,9%. Dal terzo trimestre 2007 il PIL si è contratto del 9,1%, o meglio rispetto al terzo trimestre 2007, scusate. E per quanto riguarda l'industria italiana c'è la situazione di Federmeccanica, la consueta indagine trimestrale del settore. Il vicepresidente di Federmeccanica, Roberto Maglione, dice: siamo in una situazione di limbo, di stagnazione. Ascoltiamolo al microfono di Leonardo Rossi. La situazione del comparto metalmeccanico non presenta ancora segnali di crescita molto chiari, siamo in stagnazione, però stiamo venendo fuori dalla recessione, quindi c'è un moderato ottimismo. I dati congiunturali vedono una produzione che praticamente riconferma i dati registrati da inizio anno. La produzione metalmeccanica è in leggero calo, però vi sono alcuni segnali incoraggianti sul versante delle esportazioni, soprattutto verso i paesi extracomunitari, Russia, Cina, India, eccetera. Il fronte lavoro immediato assolutamente no, perché quasi tutte le imprese metalmeccaniche stanno esaurendo i magazzini, avendo degli ordini ancora stagnanti, come si diceva. È chiaro che questo fatto consentirà una sorta di ripresa moderata, molto lenta, nel corso del 2014, però i primi segnali che abbiamo per inizio 2014 non sono incoraggianti sul versante occupazionale. Probabilmente sì, le ore di cassa integrazione difficilmente diminuiranno. Per il comparto metalmeccanico evidentemente la partita del cuneo fiscale è quella in assoluto la più importante, dopodiché anche qua diversificare politica industriale per le piccole imprese da un lato e per i grandi gruppi che comunque sono importanti per questo paese dall'altro. Il settore auto, dice il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, no ad incentivi per le rottamazioni, ma accolgo l'invito della FIOM, istituiremo un tavolo per il settore auto al quale parteciperanno anche i sindacati. Le questioni Fonsai, che sono al centro della cronaca politica in realtà di queste ore, c'è la notizia, lo avete sentito anche nei giornali radio. Il verbale di Salvatore Rigresti, interrogato nell'inchiesta milanese, mi feci l'attore presso Silvio Berlusconi del desiderio dell'allora prefetto Cancellieri, che era in scadenza a Parma e preferiva rimanere in quella sede anziché cambiare destinazione. Rigresti ha spiegato che la segnalazione ebbe successo. Allora, a pensar male, no, come si dice, si fa bene, insomma, no? Vi dico solo questo: la notizia è uscita 10 minuti dopo il voto della mozione di sfiducia sulla Cancellieri, che non ha dato appunto la sfiducia alla Cancellieri, ma anzi ha confermato la fiducia, per carità. Però è notizia. Sempre il verbale di Rigresti. In alcune occasioni ho segnalato al presidente Berlusconi il mio personale auspicio che si trovasse una sistemazione per Giannini. E chi è Giannini? L'ex presidente dell'ISVAP, l'Istituto di Controllo sulle Assicurazioni, quello che doveva vigilare su Fonsai. Chiudiamola qua e veniamo al primo tema di questa giornata, che sono ancora una volta i conti pubblici. Ragione che ci scrive al 349-238-6666 di quanto preavviso abbiamo diritto per poter adempiere al dovere fiscale. Lo comunicheranno nella notte o sul far del mattino? Quanti saremo in coda? Buona domanda. Dino Pesole del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Quando arriviamo ad una quadra su questa seconda rata IMU che la dobbiamo pagare il 15 dicembre? Sembrerebbe nella giornata di domani, e ammesso che il governo riesca nella giornata odierna a risolvere tutti i problemi connessi alla sostituzione, all'individuazione di nuove entrate che appunto sostituiscono quelle della seconda rata dell'IMU, che equivale a 2,4 miliardi. Siamo al punto di partenza, come nel gioco dell'oca, cioè in realtà esattamente la situazione in cui poi ci si era trovati a fine agosto, cioè bisogna trovare risorse, che adesso diventa ancora più complicato perché man mano che si avvicina la fine dell'anno è evidentemente sempre più difficile sostituire gettito già inserito nei saldi di bilancio con altro nuovo fresco, ed ecco che rispunta la vecchia e abusata arma dell'aumento degli acconti fiscali. Oh Madonna! Oh, Madonna. Senti, Dino, perché qua, insomma, leggiamo dalle agenzie, mancano 900 milioni, ma quest'altro miliardo e mezzo dove l'hanno trovato? Perché sono in tutto, abbiamo detto, 2 miliardi e 4, no? La seconda rata IMU. Il primo miliardo e mezzo dove l'hanno trovato? Dove l'avrebbero trovato poi? Perché? In realtà le cose stanno leggermente in modo diverso, cioè, sembra che il governo abbia recuperato attorno al 1,8-2 miliardi per effetto della, appunto, manovra di aumento degli acconti IRES e IRAP, quindi a carico delle imprese sostanzialmente. Ed è tutto evidente, anche per spiegare a chi ci ascolta, che questa è una sorta di illusione contabile, perché se tu aumenti oggi l'acconto, poi in sede di saldo sarà l'anno prossimo, sarà tra 2 anni, però lo devi scontare, cioè oggi maggior gettito, domani minor gettito. Però poiché bisogna trovare entro poche ore 2 miliardi almeno, questa sembra essere l'unica strada. Il resto della copertura a cui facevi riferimento deriva dal fatto che il governo ancora non ha deciso se abolire il pagamento della seconda rata dell'IMU anche relativamente ai terreni e ai beni strumentali agricoli. E qui c'è una partita politica in corso piuttosto forte, che vede impegnato il Ministro dell'Economia ma anche il Presidente del Consiglio, perché se si decidesse di estendere l'abolizione della seconda rata anche a questa seconda partita, chiamiamola così, allora bisognerebbe trovare subito anche gli altri milioni che mancano, quindi arriveremmo ai 2 miliardi e mezzo circa. Viceversa, se si decide di limitarlo alle prime case di abitazione, e allora la copertura scende a 1,9-2 miliardi. Questo è un po' il senso della riflessione in atto nel governo. Fatto sta che questa vicenda dell'IVA, ormai che ci trasciniamo da 6 mesi, sembra essere giunta ormai alla conclusione, e devo dire sarebbe anche il caso, perché i pagamenti dovranno essere effettuati tra qualche giorno, quindi forse la certezza dei contribuenti dovrebbe essere il primo punto da rispettare. Ma come sappiamo, esiste pure uno statuto del contribuente, lo so. È una delle leggi più derogate d'Italia, perché tutte le volte nelle norme che vengono approvate si legge in deroga a quello che prevede lo statuto del contribuente naturalmente. Va bene, Dino, non notizie particolarmente confortanti, però queste sono. Io ti ringrazio come sempre per gli aggiornamenti, le notizie e le spiegazioni. A scriverci di tasse, qualcuno dice l'IMU ho deciso che non la pago, la faccia loro, occhio perché poi è peggio. Ci chiedete, dato che Dino Pesole diceva dove si vanno a trovare questi soldi, Dino Pesole dice stanno pensando di nuovo ad un aumento degli acconti. Chiedete, vogliono farli il 120%? Non lo so, a questo punto veramente possibile tutto. Parliamo di borsa, va? Di via Zancaner, Radio Core, il Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Buonasera. Come stai? Bene? Bene, abbastanza, grazie. Bene. Allora, Milano negativa, anche se non di molto? Sì. Sì, Milano ha chiuso in territorio negativo, ma sopra i minimi. Diciamo che è stata una seduta debole, tutta vissuta in attesa della pubblicazione da parte della Federal Reserve dei verbali dell'ultima riunione, che potrebbero dare indicazioni sul timing della riduzione delle misure di stimolo all'economia. Oggi sono arrivati comunque dati positivi dagli Stati Uniti, con le vendite al dettaglio che sono salite sopra le attese. Per quanto riguarda gli altri indici europei, hanno chiuso comunque in territorio debole. Parigi al momento è sotto la parità, Francoforte positiva e Londra negativa. Comunque tutta l'attesa quindi è per la chiusura di Wall Street e poi per le minute della Fed. Questo per quanto riguarda il livello generale. Andiamo a vedere i singoli titoli. La migliore è Setti Microelectronics oggi, più 3,8%. Sì, Setti ha beneficiato nel pomeriggio di alcune dichiarazioni arrivate dalla Morgan Stanley Conference a Barcellona. Il numero uno del gruppo, Carlo Bozzotti, ha infatti parlato per il mese di ottobre di un miglioramento degli ordini contro un terzo trimestre che invece era stato debole. Il manager ha anche aggiunto che la domanda di semiconduttori da parte delle aziende auto è stata sostenuta e ritiene che questo trend possa confermarsi anche nel quarto trimestre. Quindi sono queste dichiarazioni che hanno sostenuto il titolo, che in mattinata viaggiava invece con pochi spunti. Eni, abbiamo dato la notizia, insomma, in apertura di trasmissione, un più 0,11% dopo la cessione della quota in Severa Energia. È questo che ha un impatto? In realtà sì, diciamo che sono due i fattori. Da una parte la notizia appunto della cessione della quota in Severa Energia, dall'altro il mercato continua ad interrogarsi sulla possibile cessione di una quota detenuta dal Tesoro nell'ambito del piano di privatizzazioni, e quindi vediamo che il titolo comunque ha vissuto una seduta più o meno ancorata sulla parità, appunto, per poi chiudere a più 0,11%. Per quanto riguarda, ecco, mi sembra che soffra ancora Finmeccanica, meno 2,24%, c'è sempre l'India che gioca su questo. Sì, Finmeccanica ha risentito ancora delle indiscrezioni di ieri, appunto, secondo cui l'India avrebbe ritirato quella fornitura di elicotteri dal valore di 560 milioni, e la società ha specificato non aver ricevuto alcuna comunicazione, ma evidentemente il mercato teme che l'indiscrezione possa essere confermata, e gli analisti spiegano che la notizia sarebbe negativa più per il danno d'immagine che a livello quantitativo e di business. Allora, bene Ferragamo, più 2,18%, CNH più 2,10%, Telecom Italia più 1,87%, qua un rimbalzo direi, no? Sì, si tratta di un rimbalzo, ieri il titolo aveva perso terreno. Ricordiamo che la scorsa settimana l'amministratore delegato Marco Patuano è stato a Londra e a New York per illustrare il piano industriale agli investitori, oggi è sempre anche lui alla Morgan Stanley Conference di Barcellona. Le attese del mercato a questo punto sono per la presentazione delle liste da parte degli azionisti in vista dell'assemblea che si terrà il 20 dicembre, un'assemblea che dovrà decidere in primis sulla revoca del consiglio di amministrazione attuale ed eventualmente in seconda battuta nominare quindi un nuovo consiglio. Altre questioni societarie in ballo per la Popolare di Milano, più 1,76%, da quel che si è appreso oggi Dino Giarda starebbe per presentare una lista per il rinnovo del consiglio di sorveglianza. Nei giorni scorsi Fitch aveva tagliato il rating, il suo giudizio sulla banca a spazzatura. Sì, anche qua diciamo che l'attesa quindi è per l'assemblea, per l'elezione del consiglio di sorveglianza che si terrà il 21 dicembre. Ieri il titolo aveva perso terreno, come dicevi tu, dopo il declassamento da parte di Edificio, oggi recupera e iniziano infatti a delinearsi le liste per l'elezione del consiglio di sorveglianza. Da una parte ci sarebbe quindi, anzi vi è stata la conferma oggi, che ci sarà Piero Giarda, e dall'altra Lamberto Dini, e quindi l'attesa è tutta per l'assemblea del 21 dicembre. Grazie a Livia Zancaner di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo viene battuta una notizia, ve la do, che Ionella Ligresti, arrestata lo scorso luglio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino su Fonsai, è da oggi agli arresti domiciliari, lo ha deciso la magistratura torinese, come sentite, sia dal versante politico che dal versante giudiziario sulla vicenda Fonsai. Oggi arrivano molte notizie. Qualche altro titolo oggi, bene anche Buzzi Unicem, più 1,07, Mediaset più 0,83, UbiBanca più 0,81, più 0,7 Ansaldo, World Duty Free mezzo punto percentuale di guadagno, più 0,4 Luxottica, più 0,3 Mediolanum e più 0,2 Parmalat. Appena sopra la parità e nel Green Power Prismi, Angitech, Eni e Azimut, Pirelli in perfetto pareggio, appena sotto la parità Campari e Generali, giù Fondiaria Sai e Snam dello 0,21, Exor dello 0,3, così come A2A dello 0,4, Enel e Tenaris, Unicredit Unicredit di mezzo punto percentuale, dello 0,6 TOTS Terna e Monte dei Paschi di quasi un punto, dello 0,89 Mediobanca, Fiat qui sì, di quasi un punto, dello 0,94%, Atlantia di un punto percentuale, Popolare Emilia Romagna dell'1,37%, Intesa San Paolo un punto e mezzo, di Assorin 2 punti percentuali di calo, Banco Popolare più 2,4, meno 2,14%, Finmeccanica meno 2,24%, Saipem meno 3,16%, Autogrill meno 3,5%. E ora parliamo di Sardegna. Ah, e la quotazione naturalmente è l'euro contro dollaro, 1,34,55. In Sardegna andiamo, anche qua, anche oggi, l'affrontiamo dal nostro particolare punto di vista, pur con il massimo rispetto per la tragedia e per quello che è successo, per le 16 vittime. Ieri abbiamo intervistato il presidente di Confindustria Sardegna per avere una prima indicazione su come stanno andando le cose. Continuiamo anche oggi a seguire la situazione ospitando Renzo Iorio, presidente di Federturismo. Buongiorno, benvenuto nei nostri studi. Buongiorno, buongiorno a voi. Vogliamo naturalmente capire com'è la situazione da questo punto di vista, insomma vogliamo capire un attimo come sono messe le strutture, se avete già una idea di massimo, un'indicazione di massimo dal punto di vista dei danni. Ma certamente la priorità in questi due giorni è stata quello di cercare di mettere in salvo e valutare i danni alle persone e quindi anche ai collaboratori delle nostre imprese. I danni certamente ci sono e sono molto significativi, soprattutto direi sono danni indotti, cioè danni che derivano dall'allagamento, quindi dalla tracimazione dei flussi di acqua, quindi pone più un problema direi di qualità e di gestione del territorio e quindi di come il territorio sia in grado di assorbire questi eventi piuttosto che di danni diretti, diciamo, derivanti dall'evento, ecco, insomma. Quindi per fortuna in qualche modo il passaggio è stato abbastanza ristretto come ampiezza, quindi ha colpito veramente la zona del nord della Sardegna e aree già a centro e sud Sardegna risultano assolutamente indenni. I danni sono notevolissimi, c'è tempo per poterli diciamo risistemare prima della stagione che in Sardegna, soprattutto nel nord della Sardegna, è estremamente concentrata nei mesi di luglio ed agosto, però sicuramente il problema sussiste. Mi permetto di qualche modo, con una visione un po' più paese, del fatto di ancora una volta eventi come questi pongono all'attenzione la tutela del territorio e la qualità del territorio. Allora, Coldiretti ha parlato di 1 miliardo di euro, ma si sa che in questo momento le stime sono, si usa questa espressione, spannometriche naturalmente. Le chiedo di darci un'idea, per quanto riguarda il vostro settore siamo nell'ordine delle decine di milioni, delle centinaia di milioni, che idea si è fatto? Parlerei più di centinaia di milioni, anche perché in questo momento è un po' difficile, perché poi ripeto i danni sono soprattutto dei danni legati alla esondazione delle acque, quindi abbiamo strutture che sono completamente pervase dalle acque, soprattutto nei piani inferiori, dove è rimasto il fango e dove quindi è anche complesso comprendere qual è l'entità vera del danno, cioè se è un danno puramente di arredi, attrezzature, rimettere a posto è un tema, ma se, siccome normalmente gli impianti, il riscaldamento, raffreddamento eccetera sono sistemati nei piani interrati, evidentemente la misura in cui queste strutture sono rimaste indenni o no evidentemente fa cambiare di molto la percezione. Parlerei comunque sicuramente di centinaia di milioni, questo anche, sì. Anche perché in realtà alla pioggia e all'alluvione si è associata una mareggiata e molte strutture sono sul mare. Assolutamente. Il vantaggio, diciamo, in alcune strutture poi i danni sono stati parzialmente contenuti rispetto al fatto che le strutture erano ormai chiuse, quelle stagionali in riva al mare, quindi normalmente la chiusura invernale comporta anche un minimo di protezione, diciamo, un po' più strutturata rispetto al periodo normale, quindi qualcosa è stato alleviato, ma certamente i danni sono veramente ingenti. L'importante è riuscire, tra virgolette, anche a approfittare di queste situazioni per porre in qualche modo rimedio in termini preventivi, ma anche a ripensare appunto alla distribuzione e all'utilizzo dei suoli in modo più intelligente e rispettoso, alla fine poi proprio di un avviamento, perché È vero che il turismo in qualche modo contribuisce e spinge magari speculazione immobiliare a aumentare la cementificazione, ma non dimentichiamo che l'attrattività turistica di una destinazione è largamente figlia della qualità del paesaggio e del luogo, e quindi un eccesso di cementificazione va poi a svilire totalmente la destinazione stessa. Quindi il grosso tema è gestire bene l'equilibrio di queste realtà. Ecco, quindi ci sono realtà virtuose. Certamente devo dire Olbia è una realtà che, come città, come sviluppo che ha avuto la città, uno fatica un po' a trovare che sia in qualche modo esemplare. Ma vuol dire Olbia, perché parliamo di Olbia, è piena l'Italia di questi grandi sviluppi che non aggiungono qualità ai luoghi, non aggiungono esperienza e alla fine sono poi anche dei posti di passaggio. Al contrario, molte realtà, la Costa Smeralda evidentemente è uno di questi, ma insomma degli sviluppi turistici ragionati, con un equilibrio significativo tra ambiente incontaminato e struttura, evidentemente sono una chiave importante. Voglio dire una cosa a Alberto, che ci scrive da Monserrato, provincia di Cagliari, dicendoci: tante chiacchiere sulla Sardegna, tra poco vi dimenticherete di noi e vedremo chi ha ragione. Alberto, guardi, questa radio mi sembra che non abbia mai abbandonato le zone di questo paese in difficoltà. Il lavoro che abbiamo fatto sull'Emilia lo conoscete benissimo, se lei è un ascoltatore lo sa. Io le posso, dal mio piccolo, la posso rassicurare, insomma, per quanto conti io. Non vi dimentichiamo e non vi dimenticheremo. Massimo Passamonti, presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, buonasera, benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, si è svolto oggi a Milano il convegno Gioco, Giocatori, Comportamenti e Riflessioni, promosso proprio da voi, da Sistema Gioco Italia. Alcuni dati: gli italiani a rischio di sviluppare una dipendenza da gioco sono 790.000, l'1,65% della popolazione, ed è un dato in linea con la media europea. Ma ci sono anche aspetti più strettamente economici di tutta la vicenda, come l'insistenza e la pressione del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, anche di una parte del sindacato, perché il gioco sia tassato di più. Ma oggi vogliamo anche parlare di un altro elemento, che è il fatto che l'industria del settore presenta un piano sostanzialmente per la riduzione delle slot. È così, Passamonti? Sì, è così, ed è non solo questo, nel senso che il piano che abbiamo presentato è un piano che prevede una riduzione del numero di slot, una riduzione dei canali distributivi delle slot presenti sul territorio, quindi significa toglierle per esempio in tutti i punti che non hanno una specializzazione la possibilità di un controllo, quindi che ne so, dove sono presenti dalla lavanderia, negozi diciamo atipici di commercio al minuto, cosa che purtroppo è avvenuta in questi anni. Tornare a un livello di contingentamento più restrittivo: oggi è possibile mettere un massimo di 8 macchine nei punti vendita, noi diciamo di tornare al vecchio contingentamento che prevedeva un numero massimo di 4 macchine, l'introduzione di criteri per l'apertura di sale slot, che sono quelle che in qualche modo hanno come dire, acceso ancora di più l'attenzione sul settore per quanto riguarda appunto il fenomeno dell'apertura, soprattutto nelle periferie, di diverse attività di offerta di gioco pubblico. Cioè, tutte cose concrete accompagnate da una riflessione di carattere generale relativa alla, a nostro avviso, necessità ormai di introdurre anche una destinazione di scopo degli introiti erariali, come avviene in altri paesi, in Inghilterra, nei paesi del nord Europa, tutte condizioni che secondo noi e motivi che rappresentano come dire, elementi concreti per mantenere l'offerta legale del gioco, perché l'offerta legale, la concessione garantisce il controllo, e nello stesso tempo ritornare ad una dimensione del gioco che contenga i fenomeni di come dire negativi che possono essere stati determinati da un eccesso, di offerta. Di offerta. Passamonti, Passamonti, su questo una domanda a farle. Voi proponete quello che definite come una sorta di nuovo piano regolatore, come una sorta di nuovo piano regolatore, mi scusi la distrazione, mi sembrava che fosse caduta la linea. Non potete iniziare già voi? Cioè, quello che mi sembra di capire è che chiedete nuovi regolamenti da questo punto di vista. Non potete iniziare già voi? La ringrazio della domanda. Il gioco in Italia è una riserva di legge a favore dello Stato. Noi rappresentiamo imprese concessionarie dello Stato che operano per conto dello Stato. Tra l'altro le concessioni sono contratti onerosi sottoscritti da imprese private con obblighi di convenzione molto importanti, molto onerosi appunto dal punto di vista economico. Quindi è evidente che qualsiasi modifica delle condizioni di concessione vanno determinate dal concedente, che è lo Stato. Quindi noi abbiamo presentato un piano, soprattutto in primis all'attenzione dei nostri riferimenti istituzionali, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ministero delle Finanze, Parlamento e Governo, ma anche nei confronti delle associazioni, e oggi è stato un momento importante di confronto anche col mondo delle associazioni, con la Fondazione della Sussidiarietà e con il movimento del settimanale Vita, proprio perché noi possiamo soltanto essere attori di proposte che possono in qualche modo trovare auspicabilmente trovare un riscontro a livello istituzionale. Voglio sottolineare che l'abbiamo fatte noi queste proposte concrete di riformulazione dell'offerta di gioco, rimodulazione dell'offerta sul territorio, restrizione degli ambiti e dei perimetri di offerta. Quello che lei citava all'inizio, gli interventi che si fanno in Parlamento, purtroppo allora, Passamonti, è da registrare che sono segnati dal fatto di, come dire, di continuare ad accedere al settore del gioco considerando una sorta di bancomat. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia. E siamo con Massimo Passamonti, presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia. Abbiamo lasciato in sospeso un paio di domande, abbiamo parlato del convegno che hanno organizzato oggi e anche delle proposte che hanno presentato le imprese del settore per ridurre il numero di slot. La domanda che è rimasta in sospeso era quella sulle richieste che arrivano da più parti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e anche il sindacato, di una maggiore tassazione sul gioco. Beh, insomma, immagino, Passamonti, che dal vostro punto di vista non possiate che essere contrari. Siamo contrari anche per una ragione, se vuole, che deriva dall'assurdità sulla quale poggiano queste proposte. Una delle ultime che ho sentite a proposito del gioco online parlava di una raccolta di gioco online nel nostro paese per 50 miliardi di euro. In Italia si giocano, se va bene, 750 milioni di euro sull'online. Mi dica lei, se uno dice, parte dall'assunto che ci sono 50 miliardi di movimento, aumento le tasse e sui 50 miliardi presunti che non esistono e risolvo i problemi del paese, mi dica lei che approccio serio è questo. Così come chi continua a dire che si può aumentare indistintamente il preu sui prodotti di gioco, sapendo che aumentare il preu, la tassa sui prodotti di gioco, favorirebbe sicuramente un ritorno all'illegale. L'ultimo aumento di tasse sui gioco l'anno scorso, finanziaria del 2012, per un importo di 150 milioni che doveva finanziare... Ammetterà però, Passamonti, sì. Ammetterà però che la tassazione per quanto riguarda soprattutto il poker, casino online e giochi online in genere è particolarmente bassa? Ma è bassa perché non può che essere bassa. Cioè, voglio dire, l'online nel mondo è un prodotto che ha come costi la messa a disposizione della piattaforma tecnologica. Quindi gli operatori sono remunerati in modo bassissimo, con una percentuale che varia da meno 1% a un massimo del 3%. Il movimento deve avere, il prodotto deve avere un altissimo payout, perché essendo un gioco offerto in modalità online, per essere competitivo rispetto al prodotto offerto sui circuiti illegali, non può che avere l'attrattiva del prezzo, cioè è una regola di mercato. Se invece si vuole cancellare l'online, si dica chiaramente cancelliamo l'offerta online, cioè è più serio. La ringrazio, questa è la sua opinione. Massimo Passamonti, presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro. A chi ci chiede, parlerete della vicenda dell'AMT, l'azienda di trasporto di Genova, e delle proteste contro la privatizzazione? Avremo tra un attimo, tra poco, il sindaco di Genova per parlare proprio di questo, ma prima vogliamo parlare di imprenditori. Perché è stato appena reso noto il vincitore del premio imprenditore dell'anno 2013, organizzato da Ernst & Young con la collaborazione del nostro gruppo editoriale, Il Sole 24 Ore. È alla sua 17esima edizione. L'anno scorso il premio andò ad Alberto Bombassei, presidente di Brembo. Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst & Young per il Sud Europa. Salve, buonasera. Buonasera a lei. Chi ha vinto quest'anno? Quest'anno ha vinto un gruppo interessante come quelli degli anni precedenti che lei citava, cioè Alberto Bombassei e Alessandro Benetton. Quest'anno invece ha vinto Fulvio Montipò del gruppo Interpump, ed è secondo me la cosa interessante di questo gruppo, a parte che è leader mondiale nel suo segmento ed è un settore meccanico ad altissima tecnologia ed innovazione, a dimostrazione che poi l'Italia, quando esprime eccellenze, non le esprime solo nel food, ma le esprime o nel fashion, ma le esprime anche nella tecnologia. Cosa fa Interpump, Iacovone? Cosa fa Interpump? Interpump lavora sostanzialmente sui pistoni, quindi insomma lavora sulla parte meccanica, fa dei pezzi all'interno dei pistoni. E delle pompe, quindi pressione dell'aria, sono in questo segmento e sono leader mondiali. Poi ci sono due premi speciali quest'anno che sono andati a Stefano Bartolotti di Micoperi, premio straordinario. Micoperi è la società che si è occupata dell'operazione di recupero di Costa Concordia, che ha ridato un po' di ossigeno all'immagine dell'Italia in giro per il mondo. E il terzo, l'altro premio speciale che volevo menzionare, è quello ai fratelli Alessi, del gruppo Alessi, perché loro hanno un impegno nel sociale molto importante e hanno, anziché mandare i propri operai in cassa integrazione, hanno pagato lo stipendio degli operai per aiutare i comuni colpiti dal terremoto, comunque insomma per fare attività sociali. Quindi credo che meritassero questo premio per questo impegno. Mi interessa molto, e qua chiudiamo, le chiedo di essere breve, sì. Iacovone, il segnale che arriva appunto con Interpump è qualcosa che già accennava lei, insomma, no? Sì. È un ripeto, è un prodotto anche complesso da spiegare, persino quello che fa Interpump, però è un caso tipico di eccellenza italiana. Sì. Io quello che diciamo tramite l'imprenditore dell'anno che organizziamo anche insieme a BNL che ci affianca, e quello che scopriamo è quanti segmenti noi siamo in eccellenza, e tutti i segmenti di mercato in cui siamo eccellenti e leader mondiali sono anche nelle tecnologie, nella meccanica, dove noi non ci aspettiamo di essere questo. Io l'unico, in genere sono sempre aziende che riescono a coniugare bene l'aspetto dell'innovazione con l'aspetto della gestione di talenti, quindi persone di grandi qualità, con la globalizzazione. Questi oggi sono anche i nostri migliori clienti, che ci consentono a noi di andare bene anche in questi anni di difficoltà, seguendo questi clienti. Quindi questo è quello che ci differenzia. L'unico problema che noi abbiamo è che riusciamo a essere eccellenti e leader mondiali in segmenti piccoli, perché la dimensione dell'impresa spesso non ci consente di competere nei mercati più grandi, nei segmenti di mercato più grandi. Grazie a Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst & Young per il Sud Europa, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Ed eccoci a parlare di Genova. Prima consentite un paio di precisazioni che non sono in difesa del settore del gioco, sono semplicemente constatazioni. A chi scrive ancora sulla vicenda dei 98 miliardi che dice, ci scrive al 349-238-6666, evasi dalle slot, allora erano 98 miliardi secondo la richiesta, se non sbaglio, della procura, anzi no, è corretto, della procura della Corte dei Conti. E poi in fase di giudizio fu abbassata la cifra a 2 miliardi. E poi c'è questa ipotesi di sanatoria. Insomma, questa è la cronaca, giusto per chiarire, insomma, perché 98 miliardi, come se vi dicessero, questa persona è stata condannata a 200 anni di carcere. E in realtà è solo la richiesta del pubblico ministero, giusto per chiarire, insomma. Allora, è stata un'altra giornata di scioperi, tensioni a Genova, è stato bloccato il traffico sulla sopraelevata. Per chi conosce Genova sa di che cosa stiamo parlando, cioè vuol dire bloccare la città. Con alcuni centinaia di lavoratori di AMT, l'azienda di trasporto locale, delle altre municipalizzate che hanno appunto bloccato il traffico. E poi hanno liberato la strada. Secondo giorno di sciopero selvaggio del trasporto pubblico locale. Questo perché? Perché si parla di privatizzazioni delle aziende. Marco Doria, sindaco di Genova, buonasera. Buonasera. Allora, volete privatizzare? Sì o no? No, non è un modo proprio sbagliato di porre la questione. È quel modo sbagliato di porre le questioni che magari anche mediaticamente gonfiato, contribuisce ad accrescere la tensione. No, ma giusto perché sia chiaro, Doria, qua non abbiamo nulla in contrario, anzi, insomma. Cioè, se... No, lo so. quello che vuol fare il Comune di Genova è tenere in piedi in un modo efficiente delle aziende comunali, trovando per ciascuna di esse le soluzioni migliori per la loro vita e la loro prospettiva. Poi posso entrare nel merito, perché detta così può sembrare generico. Un pochino sì, glielo devo dire, insomma. Se ci va un po' più nel dettaglio e ci spiega che cosa state immaginando per questa azienda, quantomeno per quella del trasporto pubblico locale. Allora, appunto, perché quello che pensiamo di poter fare per l'azienda del trasporto pubblico locale, per gli ascoltatori di una radio che ha un pubblico attento e documentato, ovviamente sono cose diverse da quelle che pensiamo di poter fare per l'azienda dell'igiene urbana, ad esempio, o delle manutenzioni cittadine. Certo. Quindi abbiamo aziende, queste sono le tre principali aziende che abbiamo: igiene urbana, ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico e manutenzioni cittadine. Sono aziende diverse, soggette a normative di legge diverse, che quindi richiedono provvedimenti diversi. Trasporto pubblico urbano. L'azienda del Comune di Genova, questo lo dico ancora per gli ascoltatori, non ha un euro di debito. Non ha un euro di debito, perché non che sia in condizioni di salute eccezionali, ma i conti economici, c'erano state delle ripatrimonializzazioni, eccetera, per cui non c'è un euro di debito. C'è un problema però di conto economico di questa azienda, che noi nel 2013 abbiamo tenuto, sostanzialmente l'anno non è finito, in condizioni di sostanziale equilibrio, grazie al contributo come corrispettivo di un contratto di servizio offerto dal Comune di Genova per servizi integrativi rispetto a quelli pagati dalla Regione, e a un accordo che ha portato i lavoratori a rinunciare a una quota della loro retribuzione, per cui a novembre posso dire che il bilancio conto economico dell'azienda del trasporto pubblico genovese potrebbe essere sistemato, o in pareggio o con un meno 200.000 euro, meno 300.000 euro. Non mi fa mai piacere avere questi disavanzi, però è un disavanzo che rispetto a tante altre realtà del paese è gestibile. Allora, c'è stato un tormentone, un autentico tormentone su il Comune di Genova vuole privatizzare, la privatizza, non la privatizza, che cosa ne fa? Quello che dico è questo: esiste una legge regionale approvata dalla Regione Liguria due settimane fa, che istituisce una agenzia regionale come authority per il trasporto pubblico locale, che ha il dovere di gestire le gare per l'affidamento del servizio. Quello dell'azienda genovese è un affidamento di servizio che scade il 31 dicembre 2014, tra 13 mesi. Nel 2014 cosa deve avvenire? L'agenzia regionale deve bandire una gara per l'assegnazione del servizio su base regionale a decorrere dal 1 gennaio 2015. Ho parlato col presidente della regione e ci muoviamo sulla stessa linea. Questa gara deve essere concepita per un'integrazione del trasporto regionale su ferro e su gomma, e quindi concorreranno dei soggetti a questa gara. A questo punto io oggi, novembre 2013, avendo quella scadenza, gara alla quale io potrò dare un contributo di idee come Comune di Genova in quanto facente parte dell'agenzia regionale, ecco, cosa devo fare? Devo tenere in vita la mia azienda, che non muoia nel corso del 2014, e questa mia azienda, quanto più sarà in salute, allora, in cooperazione con altre, potrà partecipare alla gara che verrà bandita nel 2014. Ok, questo è chiarissimo. Brevemente, oggi, in questo contesto che ho voluto spiegare con dovizia di dettagli, ma perché gli ascoltatori hanno... Per far capire, io oggi non privatizzo oggi un'azienda... Allora noi siamo quasi in chiusura, Doria, però su una cosa non mi ha risposto: l'ipotesi di privatizzazione c'è, è in ballo oppure no? In questo momento no, perché noi lavoriamo per costruire la possibilità a questa azienda nel secondo semestre di 2014, quindi tra 7 mesi, perché comunque questa è la deadline che noi abbiamo, di poter partecipare a questo tipo di gara. Grazie al sindaco Marco Doria, sindaco di Genova, che è andato veramente con dovizia di particolari. Avevamo poco tempo, purtroppo, perché l'avrei tenuto anche su una serie di altre cose. Sarà per la prossima volta, tra cui l'uscita qualche tempo fa di un'azienda francese dall'azionariato appunto di AMT, dicendo col comune non si riesce a lavorare. Anche quello è un tema interessante. Grazie, Doria. Buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo per queste giornate complicate per Genova. Noi ci fermiamo. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Alessandro Jacopini e Mauro Del Corno in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani come sempre con Effetto Giorno alle 13. Radio 24, la passione si sente.